9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, e il vengo anch'io quello della Corte Costituzionale, che sul conflitto di attribuzioni sollevato dal Quirinale, materia sulla quale ho sempre pensato come gli amici del Fatto Quotidiano, dà torto naturalmente gli amici del Fatto Quotidiano, dà ragione al Quirinale e si inventa una legge per dare ragione al Quirinale, come oggi apre il Fatto Quotidiano. Sono d'accordo con loro, non c'entra considerare positivo o meno l'operato del capo dello Stato nella politica italiana, più che per le scivoloni che come tutti gli uomini ha preso anche lui. C'entra il fatto che su questa storia delle intercettazioni, in cui era finito incidentalmente anche Mancino il Quirinale, dire che c'era l'obbligo di distruggere preventivamente, che il PM, che qualcuno doveva interrompere eccetera, è un'invenzione per il Quirinale. Basta sapere che il Quirinale ha naturalmente i giudici togati dalla sua, per una volta do ragione a quelli di Palermo. Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io, no no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. A tagliarti una mano, come avviene per gli immobili delle casse di previdenza, quelle dei professionisti, che verranno espropriati. Espropriati da chi? Dallo Stato. Perché gli immobili delle casse di previdenza dei professionisti potranno essere venduti con un decreto che lo stabilisce. Chi? Lo Stato. Ma sono dello Stato? No! Eppure lo Stato decide. E perché? Perché lo Stato prende dove può. Perché lo Stato è ladro. Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no, no, per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no. Allora, buon inizio di trasmissione di questo mercoledì 5 dicembre, nel darvi un saluto vi invito ancora a riflettere su questa fine di questo Parlamento morente. Prima di andare ai punti di oggi affronteremo due nodi molto negativi della crisi italiana: da una parte le costruzioni, dall'altra il settore dell'auto. Vedremo un aspetto anche un po' più positivo, perché molti ascoltatori ci dicono: ma non è che esageri a caricare tutti i giorni solo con negatività la lettura della crisi italiana? Ma lasciate che vi dica che nel frattempo questa fine del Parlamento è qualcosa di quotidianamente veramente inverosimile, come devo dire. Cioè, se noi sommiamo gli effetti della tensione via via crescente in Parlamento, che svuotano nei provvedimenti all'esame delle Camere quel po' di buono che c'era, per esempio ieri per effetto appunto del braccio di ferro tra maggioranza ed esecutivo sono saltati i crediti d'imposta alle piccole opere pubbliche, sono rimasti solo alle maxi opere faraoniche, cioè quelle sopra i 500 milioni. Vedremo ora, parlando proprio della crisi dell'edilizia, che cose di questo genere sono come spararsi in mezzo alle gambe, per così dire. Eppure avvengono quotidianamente sui provvedimenti economici, sulle concessioni balneari Non è passata la norma che le prorogava per 30 anni, naturalmente per l'ennesima volta rinviando ogni idea di gara nel settore dei bagni, quelli sulle spiagge, però è passata la proroga comunque di 5 anni, quindi viene smontata l'idea che ogni tanto si riesca a far passare questa idea elementare che le concessioni vanno rimesse a gara con punteggi chiari ex ante in cui chi investe di più va premiato. Questo viene confuso invece dai titolari di concessioni storici come l'esproprio del loro ammortamento e avviamento. Non è affatto così, ma alla fine loro riescono sempre a passare in Parlamento. PD e PDL sono sulla stessa linea, si prendono a randellate, ma naturalmente di fronte al fatto che chi ha messo le zampe una volta sulle cose di Stato non le molla mai, vincono sempre loro. PD e PDL totalmente d'accordo. Vedete che, capite che ogni giorno ci sono cose di questo genere, non si riesce a capire per l'ennesima volta quando si vota, siamo di nuovo alla distinzione tra una sola regionale, forse il Lazio inizio febbraio, Lombardia sembra che torni alle politiche perché Berlusconi cambia idea ogni secondo, adesso parrebbe che voglia di nuovo affittare uno stadio per dirci cosa pensa, con il Milan, non va più bene Vespa, lo stadio, il Milan. Pare che sia tornato al Porcellum, quindi si vota con il Porcellum e va bene anche al PD che fa finta di protestare, ma torniamo a votare con le liste bloccate. Ma io veramente non ci capisco più un accidente di niente, proprio un accidente di niente. Peccato, che devo dirvi, perché anche questa storia del Quirinale meritava un rispetto diverso della legge, secondo me. Io non voglio far polemica nei confronti del capo dello Stato, nei confronti del quale ho un giudizio molto più positivo che negativo. Questa vicenda continua a non capirla, e anche questa vicenda per me prescinde da quello che penso degli eccessi della Procura di Palermo. Bisogna giudicare le vicende nel merito, abituarsi a fare questo, non partire dal presupposto che c'è chi ha sempre ragione chi ha sempre torto. Comunque, ma... Dopodiché vi segnalo anche un bellissimo articolo, due articoli da segnalarvi. Il primo, secondo me il miglior articolo della giornata di oggi, è quello sul Corriere della Sera, firmato da Piero Stellino. Il titolo che trovate, l'argomento è: i cittadini e le tasse, se lo Stato sia obbligato a giustificare un prelievo fiscale eccessivo, e comincia con una frase di quelle che io sottoscrivo a piene mani. Scrive Piero Stellino: un imprenditore che, già oberato di tasse, rischia il fallimento perché la pubblica amministrazione non gli dà i soldi che gli deve. O un comune cittadino che per le stesse ragioni non riesce a mantenere la propria famiglia. Hanno il dovere di continuare a pagare le tasse come se nulla fosse? Ovvero hanno il diritto alla ribellione, sottraendosi al contratto sociale? Continua Piero Stellino: se fossimo un paese culturalmente e politicamente attendibile, classe politica, media, opinione pubblica, si chiederebbero se, a parte grandi evasori che non c'entrano, l'evasione non sia a volte una forma di autodifesa del cittadino contribuente. Non ha alcun senso appellarsi al positivismo etico, legittimazione del re di Prussia, e al positivismo giuridico, ignorando nelle contraddizioni i limiti etico-politici. Il fallimento di un'azienda ha conseguenze sull'occupazione ed effetti finanziari sulle capacità fiscali anche dello stesso Stato. I disagi economici delle famiglie minacciano di essere un fattore di instabilità sociale. Vedete, questi sono i temi e i modi in cui mi piacerebbe vedere trattate le questioni dello Stato. Ultima segnalazione prima di andare agli argomenti di oggi: l'articolo sulla vicenda Ilva firmato dall'ingegnere Carlo De Benedetti, lo trovate sul Sole 24 Ore, e mette, secondo me molto correttamente, al centro dell'attenzione della vicenda dell'Ilva di Taranto le responsabilità dello Stato. Il responsabile vero, dice, quel responsabile vero ha un nome, scrive a un certo punto Carlo De Benedetti nell'articolo, è lo Stato italiano, perché i Riva comprano un'acciaieria che già esiste da decenni, che è stata voluta, concepita, progettata, costruita dall'IRI, 100% Stato italiano, ed è lo Stato che mette su un'enorme cocchiera in riva al mare senza alcun riparo dai venti che dal mare arrivano, sono le amministrazioni locali che permettono la nascita di un enorme quartiere proprio a ridosso di quelle strutture, sono i poteri pubblici, tutti a chiudere gli occhi davanti all'obiettivo di creare lavoro a ogni costo in quella parte del sud. I Riva ereditano fatto questo. Le loro colpe non si possono sottovalutare. Sulle bonifiche da fare costruiscono per sé un loro vantaggio privato. Cercano protezione, finanziano la politica, partecipano come primi azionisti all'Operazione Italia, che per loro non ha altro significato che procacciarsi ulteriori meriti con i protettori di turno. Tutto vero. E tuttavia lo Stato, conclude De Benedetti, non può e non deve chiamarsi fuori. Non può farlo perché ha la responsabilità principale di quanto è avvenuto. Quella responsabilità è sua, è lo Stato, il primo colpevole, ed è lo Stato che ora deve farsi carico della soluzione. Deve essere lo Stato a pagare la bonifica del sito di Taranto. Chi ha creato quel mostro deve pagare per la sua rimozione. Batto le mani e applaudo a Carlo De Benedetti, perché tutto quello che scrive qui, secondo me, è esattamente e correttamente la storia vera, la responsabilità vera, e che lo faccia lui, secondo me, aiuta un pezzo di politica italiana, quella che invoca la spoliazione del privato adesso, a riflettere sulle responsabilità vere, su chi ce l'abbia, cioè la parte pubblica, e sul perché e il per come la parte privata, che ha comunque il merito di aver riportato a margini positivi, cioè a produttività, quell'impianto, con tutti i limiti e i difetti e le responsabilità da accettare, di cui giustamente parla Carlo De Benedetti, però la responsabilità di aver messo in piedi questo schifo non ce l'ha. E quindi bisogna che concorra anche il privato, ma che lo Stato, che è il responsabile vero, ci metta del suo. Perfetto. A chi dedichiamo la trasmissione oggi? La dedichiamo a Manuele Barbisan, 37enne, gestore del caffè La Corte a Treviso, che è stato trovato ieri nel retrobottega del suo bar, impiccato. Si è impiccato lui, si è impiccato Manuele. Aveva inviato un sms prima a una sua dipendente. Aveva detto non venire ad aprire il locale. Si è impiccato e ha lasciato un messaggio. Viva l'Italia, dopo 8 anni sono finalmente libero. Si è impiccato per ragioni economiche. Manuele Barbisan, una nuova vittima. Un nuovo segno. Tra tanti che hanno fatto purtroppo la stessa cosa. E a che cosa possa indurre? Purtroppo, una crescente condizione di mancanza di liquidità, di banche che ti chiedono rientro di credito, di cartelle erariali, insomma, i duri aspetti della crisi italiana. Un abbraccio a Manuele, ai suoi parenti e ai suoi amici. Ecco, adesso andiamo a questa prima parte della trasmissione di oggi. Di chi si occupa questa prima parte? Vi abbiamo detto che toccheremo due settori che sono in particolare crisi. Il primo di questo è quello delle costruzioni. Abbiamo con noi Antonio Gennari, che è il vice direttore generale e direttore del centro studi dell'ANCE. Buongiorno e grazie a Gennari. Buongiorno dottor Giannini. Allora, abbiamo chiamato perché ieri avete fatto un richiamo a come sta andando in questo 2012 il settore delle costruzioni. Ricordo a tutti, ne abbiamo più volte parlato con il presidente Buzzetti, stamattina non poteva essere tra noi perché stava partendo per l'Algeria. È un settore che siamo riusciti, da anticiclico, che è per definizione è il classico settore con cui si risponde alla crisi e al fatto che gli altri settori vanno male, invece da noi ormai siamo al sesto anno che ha il segno negativo, e quando abbiamo visto ieri i dati dell'ANCE abbiamo tutti fatto un salto sulla sedia, perché in questo 2012, dopo tanti anni di decrescita, siamo a un ulteriore crollo del 7,8%. È così? Meno 7,6. Ma non sono i centesimi di punto. Il problema è che c'è stata una ricaduta pesante, perché siamo tornati ai livelli di caduta del 2009, cioè dell'inizio della crisi. Quindi sembrava che il sempre segno negativo, ma si stava attenuando. I dati di preconsuntivo 2012 sono di pesante caduta, meno 7,6, poi nelle nuove costruzioni meno 17, nelle infrastrutture pubbliche meno 10, tiene soltanto il comparto, diciamo, delle ristrutturazioni edilizie delle famiglie. Il problema è che anche le previsioni del 2013, del prossimo anno, sono negative, un meno 3,8, insomma, e complessivamente in questi 5 anni, se si confermano le previsioni del 2013, noi il settore perderà il 30% della produzione, e quindi a livello di produzione siamo tornati indietro di 40 anni, ecco, è il livello più basso tutti i livelli produttivi dal 1970, quindi la crisi è veramente pesante sotto tutti i profili. Lei diceva anticiclico, mi sembra anche se noi vediamo che gli investimenti in opere pubbliche, infrastrutture con risorse pubbliche sono nei 6 anni meno 43%, quindi è stata adottata una politica prociclica, perché crescevano quando c'era l'espansione, c'è stata una stretta in particolare negli ultimi anni quando c'è la crisi, quindi il settore non gli è stato dato la possibilità di fare quella sua storica funzione anticiclica rispetto alle crisi. Allora, nei 6 anni, se vanno le cose anche nel 2013 come prevedete, e comunque dall'inizio della crisi, voi dite sono rimasti a casa nel solo comparto delle costruzioni 360.000 persone. Sì, che poi se aggiungiamo anche l'indotto, perché poi il settore delle costruzioni ha una filiera molto lunga, sono 550.000 unità, insomma, ecco. Lei parlava la cosa che ha anche denunciato il presidente Buzzetti ieri, è che tutto questo avviene abbastanza in silenzio, no? Cioè abbiamo fatto un dato, no? Sono 72 Ilva di Taranto, 450 Alcoa, 277 Termini Imerese, cioè è una crisi, perché poi soprattutto il settore è fatto di piccole e medie aziende che chiudono, che bloccano le lavorazioni, e quindi è uno stillicidio che però complessivamente dopo 5 anni di crisi diventa molto pesante, insomma, e questo è un effetto molto rilevante. Se teniamo conto che anche la cassa integrazione, quindi non disoccupati ma ancora lavoratori in cassa integrazione, la cassa integrazione è passata da 40 milioni di ore del 2008 e arriveranno a 140 milioni alla fine del 2012. Se non c'è un'inversione di ciclo, chiaramente queste persone andranno sul mercato dei non occupati, quindi è un problema anche sociale veramente di proporzioni rilevanti, insomma, ecco, questo è quello che noi diciamo, è che gli effetti, alcuni provvedimenti il governo l'ha preso, ma ancora gli effetti non hanno prodotto ancora gli effetti che necessari. Noi osserviamo solamente che in paesi vicini come Francia e Germania dall'inizio della crisi sono stati adottati provvedimenti importanti per rilanciare il settore, la legge Chevalier, i mutui a tasso zero, oppure i finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti tedesca, e provvedimenti presi all'inizio della crisi e confermati in questo ultimo periodo e prolungati fino al 2016. Tutto questo da noi non sembra vedersi, insomma, non c'è. Questa è la vera difficoltà, è che non c'è una prospettiva. E anche sotto il profilo degli investimenti pubblici c'è una caduta fortissima, noi non contestiamo il rigore, ma oltre al rigore ci deve essere anche politiche attive per la crescita, ma anche questo rigore non è neutrale, no? C'è stato un… pronto? Sì, sì. Il patto di stabilità, nell'ultima legge di stabilità c'è un'ulteriore stretta di 2 miliardi, quindi i comuni italiani… dovranno fare una ulteriore stretta complessiva di 3 miliardi, cioè significa che i comuni devono o alzare le tasse o ridurre le spese, e noi diciamo che questo rigore non è neutrale, perché i dati che ci sono nel nostro osservatorio dicono che per i comuni soggetti al patto in questi anni dal 2004 al 2011 si è ridotto la spesa del 6%. Però questo è dato da una crescita della spesa corrente del 5% con una riduzione degli investimenti di parte capitale del 32%. Quindi diciamo che questo rigore non è neutrale, anche la stessa manovra di finanza pubblica sul bilancio tra il 2008 e il 2011 ci sono stati tagli per il 44% degli stanziamenti per le infrastrutture e solo 1,5 per le spese correnti. Quindi il problema è che non si adottano poi nei fatti, non so se volente o consapevoli o non consapevoli, una politica che stringe fortemente sugli investimenti anche infrastrutturali, eppure il paese ne ha sicuramente bisogno, le scuole, il rischio idrogeologico, cioè sono tutte provvedimenti di cui si parla, ma poi di fatto non vengono, come dire, finanziati o messi attivati quelle risorse che sono state messe in campo, seppur modeste, insomma. Né mi pare che sul ritardo dei pagamenti dei 19 miliardi che lo Stato deve alle imprese di costruzione in realtà siano stati davvero presi atti risolutivi. Atti risolutivi, diciamo che la situazione adesso, lentamente sono stati messi in campo quei decreti diciamo attuativi, ma certo il problema della liquidità rimane in tutta la sua interezza, perché le imprese che non vengono pagate per i lavori eseguiti nel settore delle opere pubbliche, questo pone un problema di tenuta del tessuto industriale, perché unita alla crisi di liquidità, crunch che di fatto c'è in particolare sul settore delle costruzioni, stanno mettendo in ginocchio tutto il sistema imprenditoriale. Questo è il punto. Diciamo che è il combinato disposto di più fattori che stanno veramente mettendo in difficoltà anche finanziarie, imprese storiche, solide, che hanno una storia antica, così anche come nel caso del mercato immobiliare. Le banche non raccolgono più fondi a medio-lungo, sia per le famiglie che per le imprese, ma per le famiglie, se uno vuole comprare un'abitazione va in banca a chiedere un mutuo, e il mutuo è a 15, 20, 25 anni, non è un prestito a 3 anni. Oggi le banche raccolgono a breve, 3-5 anni, e prestano a 3-5 anni, quindi oggi non c'è liquidità per dare una risposta in termini di mutuo a quelle famiglie. Ce ne sono tante, nel nostro rapporto ne abbiamo, se poi ne possiamo anche parlare, di una domanda, un fabbisogno di accesso alla casa molto ampio, ma non c'è questa liquidità. Noi come ANCE abbiamo fatto una proposta di che le banche mettano dei titoli, dei bond, dei cover bond di lungo periodo, finalizzati al finanziamento di mutui per la prima casa. Di fatto riprendere il vecchio principio, su cui il vecchio meccanismo che è stato che ha fatto, diciamo, nei primi anni degli anni 60, delle cartelle fondiarie. Io raccolgo a lungo e finanzio a lungo, perché il settore delle costruzioni in tutti i suoi aspetti ha bisogno di finanziamento a lungo termine. Tutto questo tutti sono d'accordo, ma ancora adesso non sembra decollare. Avevamo detto Cassa Depositi e Prestiti, fondi pensioni possono sottoscrivere questi titoli finalizzati a finanziare i mutui, le banche si pigliano il rischio di merito, però di fatto hanno una liquidità di medio lungo periodo. Quello che manca oggi è la liquidità, e questo sta inceppando completamente il meccanismo. Allora, grazie Antonio Gennari, vice direttore generale dell'ANCE. Non si tratta di voler essere pessimista, ma quando si perdono 360.000 posti di lavoro in 6 anni, 360.000, il 30% degli investimenti, i livelli di attività che tornano ad essere quelli di 40 anni fa, ripeto, si tratta di ripeterle queste cose, perché non dirle che è un esercizio di disonestà intellettuale. Non vedere decine di migliaia di imprese in ginocchio significa voler raccontare palle, e purtroppo noi non lo facciamo, e dico purtroppo perché ovviamente passiamo pure per coloro che poi magari pensano male del governo, di chissà che cosa. Non c'entra nulla, la realtà bisogna guardarla per quella che è. Eccoci qua, tornati in diretta a 9.38 primi 26 secondi, andiamo al secondo capitolo della puntata di oggi, quello del concessionario dell'auto. Abbiamo con noi il presidente della Federazione Italiana dei Concessionari dell'Auto, il presidente appunto di Federauto, si chiama appunto Filippo Pavan Bernacchi. Buongiorno e grazie di essere con noi, presidente. Buongiorno a tutti e grazie a voi. Allora, qui siamo di fronte a un settore il cui fatturato vale a propria volta 12 volte l'ILVA. Ieri tutti hanno fatto i multipli dell'ILVA, però ha un senso, e il senso è quello di richiamare l'attenzione dei media per non parlare solo di un pur rilevantissimo problema come quello dell'acciaieria del gruppo Riva. ci sono settori che pagano multipli rispetto ai quali in media l'attenzione pubblica poi non va. Di fronte a un mercato dell'auto in continua contrazione, che di fronte a quello che perde in questo 2012 a malapena 1.400.000 stentate di unità nuove, di veicoli nuovi, di auto nuove vendute, e che nel 2013 scende ulteriormente verso 1.300.000, la realtà dei concessionari italiani è che il 65% di loro è in perdita. Allora facciamo, richiamiamo un secondo un po' di cifre per far capire a chi è a casa che cosa significa la situazione in cui si trovano i concessionari. Presidente Bernacchi. Ma allora è abbastanza semplice: dal 2007 a oggi abbiamo perso il 46% del mercato. E questo perché noi siamo legati per esempio a filo doppio con gli immobili, a cui è stata dedicata la prima parte della puntata, perché le famiglie e le imprese, i beni più costosi che possono acquistare sono appunto gli immobili e gli autoveicoli, quindi le auto, i veicoli commerciali e i veicoli industriali. E la filiera stava in piedi con 2 milioni di autoveicoli all'anno, gli ultimi 5 anni avevamo fatto una media di 2 milioni, con una punta di 2 milioni e mezzo. Quest'anno, come ricordava lei, siamo andati a 1,4, che è meno 20% rispetto all'anno scorso, e l'anno prossimo ci sarà un'ulteriore contrazione del 5%, perché noi riteniamo che l'incertezza data dalle elezioni l'anno prossimo, sommata all'aumento di un punto per cento dell'IVA da luglio, contrarrà ulteriormente i consumi. E qui, voglio dire, abbiamo sulle auto il 170% di aumento sulle benzine, il 202% del costo dell'assicurazione, il 198% dei pedaggi autostradali, l'IVA che su un telefonino sono pochi euro, ogni punto di IVA mediamente su un'auto sono 220 euro, quindi l'auto da luglio dell'anno prossimo costerà 440 euro in più mediamente. Abbiamo varato il superbollo per le auto prestazionali, uccidendo un settore dove eravamo leader con Ferrari, Maserati, Lamborghini. In Italia continuiamo a vendere nel resto del mondo, ma in Italia queste vendite sono bloccate, o l'alto di gamma delle BMW, dell'Audi, delle Mercedes. E quindi tutta questa cosa sommata all'80% in più dell'imposta provinciale di trascrizione, adesso forse dimezzeranno le province, questa tassa la trasformeranno in una tassa statale e pagheremo sempre la stessa cifra, no? Tutte queste cose insieme hanno ridotto i consumi, quindi come si diceva nella prima parte, anche noi con molta responsabilità abbiamo capito l'inasprimento fiscale, però di inasprimento fiscale questo paese sta morendo, per cui se non troviamo delle soluzioni per cominciare a sostenere la domanda, i consumi interni sappiamo che fanno l'80% del PIL, se noi continuiamo a uccidere i consumi interni questo paese non riprenderà mai. Senta, la realtà del ricaduta occupazionale di una crisi così diffusa all'interno del settore, più o meno come è quantificabile secondo lei? Guardi, allora a me ha colpito molto quel signore che si è tolto la vita, quell'imprenditore, perché in questo momento credo che a tutti quelli che fanno gli imprenditori che sono legati al mercato interno sia passato o passi qualche volta per l'anticamera del cervello un pensiero del genere, no? Per risolvere i problemi, e credo che sia la cosa peggiore. Ma perché? Perché gli imprenditori, non tutti per carità, ma una grande parte, sentono il peso della responsabilità del perdere la faccia, di perdere la faccia davanti ai propri dipendenti, e quindi invito tutti veramente a pensare molto bene a queste cose e non farsi prendere dallo scoramento, perché rivedremo, nonostante questo inasprimento fiscale, nonostante questa crisi, rivedremo sicuramente l'alba. Dobbiamo avere pazienza e dobbiamo anche affrontare delle cose brutte, come anche perdere la faccia. Mi scusi se ho fatto questo. No, la capisco benissimo. Però è una cosa che secondo me andava detta. Le dico, per noi con la filiera occupiamo 1.200.000 persone con l'indotto allargato, i concessionari da soli occupano 178.000 persone, noi riteniamo che nel 2012 abbiamo perso 10.000 posti di lavoro tra i concessionari e nell'assistenza, e che invece con l'indotto allargato abbiamo bruciato 220.000 posti. Tra le altre cose, lo Stato sta perdendo 3 miliardi di euro tra IVA e tasse che non introita, per questo mancano 630.000 macchine all'appello rispetto alla media degli ultimi 5 anni. E oltre ad avere questo mancato introito ha anche il costo degli ammortizzatori sociali, perché naturalmente queste 220.000 persone prima di arrivare alla fine del rapporto cercano di essere sostenute con la cassa integrazione, con la cassa integrazione in deroga, con patti di solidarietà, tutte cose che nel nostro mondo erano completamente sconosciute e che ci siamo trovati a convivere negli ultimi due anni. Prospettive secondo lei? Ma guardi, io le dico, si può fare tanto, per il nostro paese e per gli autoveicoli e per gli immobili. Bisogna però che questi governanti, tecnici, politici che siano, e io li rispetto con il massimo rispetto, si siedano al tavolo, ci ascoltino. Noi abbiamo delle proposte anche a costo zero per rilanciare i consumi. Noi vogliamo, per esempio, abbassare i costi dell'assicurazione del 40% e appoggiando la proposta dell'ACI, che con pochi accorgimenti, la lotta alla truffe assicurative e fissare il limite di indennizzo, che in questo momento in Italia l'unico caso in Europa viene fissato da ogni singolo giudice, potrebbe abbassare appunto i premi del 40%, fissare un tetto di legge per le accise. Noi abbiamo avuto 7 aumenti in un anno delle accise, sì. Siamo ai primi posti nel mondo, questo è una cosa... È un record, il governo Monti, che tanto si ammanta di virtù, è un record da questo punto di vista. È indegno, perché noi stiamo finanziando ancora la guerra in Etiopia del 1936, noi stiamo finanziando tutti i terremoti, le calamità. A me, io per carità, massima solidarietà, ma non possiamo pagarlo solo con le accise sulle benzina. Ecco, e neanche un euro viene destinato al mondo dell'automobile dalle accise delle benzina. Quindi è una cosa veramente che grida vendetta. Poi noi abbiamo presentato un piano per rilanciare i consumi, per svecchiare i 14 milioni di autoveicoli che non hanno ABS, ESP, airbag, che inquinano. E abbiamo presentato un piano scalare, triennale, non costerebbe niente allo Stato, perché recuperando una parte di fatturati introiterebbe le tasse e le potrebbe investire per sviluppare il consumo. Qualcuno dice che gli incentivi sono una droga, bene, può essere anche vero. E perché li abbiamo dati al fotovoltaico? E perché mi pare 80 miliardi? E perché adesso l'Europa si appresta a varare degli incentivi di 2 miliardi per i costruttori per ricerca e sviluppo? Allora, se sono una droga, sono una droga per tutti i settori e vanno banditi da tutti quanti i tavoli. Se ci sono, penso che li dobbiamo rivendicare anche noi. E i nostri incentivi, a differenza degli altri, vanno in tasca ai clienti, alle aziende e ai privati. Non vanno in tasca né ai concessionari né ai costruttori. Noi venderemo più macchine, sosterremo un mercato, svecchieremo il circolante, avremo macchine più sicure, meno inquinanti, daremo e sosterremo l'occupazione. Credo che sia un sistema win-win dove tutti potrebbero vincere. Allora, mi auguro che qualcuno del governo che fa tanto il pavone, che scende lo spread, ascolti queste cose. Non credo, perché il governo oramai è morente, come è morente questo Parlamento. Ci troviamo in questa situazione, bisogna ricominciare da queste proposte. Eccoci qua, torniamo per la conclusione di questa puntata del 5 dicembre. Auguri a coloro che si chiamano Dalmazio, ho dimenticato di dirlo all'inizio della trasmissione. Nel frattempo il ministro Patroni Griffi, che nel governo rappresenta i pubblici dipendenti, come si è visto lui è il pezzo dei pubblici dipendenti al governo, non è una funzione terza, in una audizione alla Camera ha quantificato in 7.300 le eccedenze degli impiegati nel personale non dirigenziale dello Stato, ha quantificato in 260.000 i precari nelle amministrazioni pubbliche, 230.000 alla scuola, 115.000 alla sanità, 15.000 nelle amministrazioni centrali, dicendo che per loro non è possibile una stabilizzazione di massa. Quindi vedrete la polemica che oggi tutto questo susciterà. Dicevamo, una punta di positività dopo i due settori delle costruzioni e del concessionario auto, che sono invece a disastro, consegni meno a tripla, quadrupla cifra, anzi no, perdonatemi, a doppia cifra, di cui la prima è un meno 3 o meno 4. E di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una elaborazione che è stata fatta da la prima e unica società italiana, che è un'agenzia di rating, che si chiama CRIF, che opera con l'autorizzazione della Consob e dell'ESMA e dell'autorità europea, e che ha ieri fatto un'elaborazione secondo la quale nel complesso del totale delle imprese italiane ce ne sono più di 24.000 che hanno un rating nelle classi di eccellenza da 1 a 4. Quindi ci sono 24.000 imprese e di queste 2.500, cioè il 10%, hanno un fatturato superiore ai 50 milioni di euro. Sono questi 24.000, insomma, i campioni italiani, quelli che malgrado la crisi riescono ad avere condizioni di patrimonializzazione, di debiti rispetto al margine al fatturato, di ottimizzazione del circolante, eccetera, eccetera, tali per cui possono accedere in condizioni ottimali al mercato dei capitali, non solo quello italiano, quindi non solo nel rapporto con le banche, ma a quello internazionale. Allora, abbiamo chiesto, curiosi, a Silvia Ghilmetti, che è il direttore dell'agenzia di rating CRIF, che appunto ha questo database che è sempre più ampio sulle informazioni creditizie in Italia per banche, società finanziarie, confidi e assicurazioni, di spiegarci un secondo: ma questi 24.000, secondo i vostri dati, Silvia, chi sono, dove sono e in che settori? Buongiorno intanto e grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, queste imprese sono, come lei ricordava, appunto società di capitali che hanno un fatturato superiore a 5 milioni e che noi abbiamo ritenuto top performer sia per le loro performance finanziarie sia per la loro per la valutazione del merito di credito che possono avere. Dove sono? Beh, naturalmente sono concentrate nelle aree del nord-est e nel nord-ovest, però ce ne sono poi in tutta Italia, diciamo che in proporzione ovviamente sono più presenti al nord, come era un po' ovvio aspettarsi. Per quanto riguarda i settori, anche qui diciamo ogni settore è un po' a macchia di leopardo, nel senso che le imprese poi vincenti sono quelle che hanno saputo aggiornare il proprio business model, adesso poi magari ne parliamo meglio, nell'ambito di settori come quello comunque farmaceutico, come quello alimentare, come quello della moda. Quindi dove diciamo ovviamente anche lì la crisi ha colpito, però è risultato vincente chi ha saputo rinnovarsi. Per esempio in che senso? Ad esempio nel senso, per chi produce beni di consumo, di focalizzare, di specializzare i propri beni di consumo rispetto a un target definito. Adesso va molto il consumo specialistico, se vediamo anche per le strade i negozi che si stanno diffondendo sono negozi che puntano a dei prodotti specifici, a specializzarsi, no? Quindi per esempio, quindi tengono meglio quelli che vanno sulla fascia alta, quindi nicchie sulla fascia alta, oppure invece al contrario la produzione per il mercato più competitivo e di massa. Quello che fa un po' più fatica è il prodotto invece intermedio, no? Quello che ha sofferto di più anche nella ristorazione, nei beni alimentari. Altre caratteristiche naturalmente sono le imprese che hanno un livello di patrimonializzazione un po' più alto, che hanno una struttura finanziaria quindi un po' più solida, e quelle che hanno saputo snellire la propria struttura di costi fissi attraverso anche un'esternalizzazione. Ovviamente è importante le imprese che hanno cercato di guardarsi anche fuori dal mercato locale, quindi sui mercati internazionali. Ed in effetti qui a passarsela meglio sono coloro che hanno il più dei margini e il più del revenue, del fatturato, che vengono ovviamente dall'estero. Sono anche coloro che stanno molto accelerando il passaggio verso l'estero. Una brevissima telefonata a Giorgio da Prato, hai 30 secondi, quindi un flash. Giorgio. Sì, ciao, buongiorno. Guarda, io penso che la crisi dell'auto andrebbe risolta a monte. La crisi, io non la chiamerei crisi dell'auto, ma crisi dei finanziamenti, perché è il CRIF che ha rovinato molte famiglie e molti piccoli imprenditori, gente che per anni ha pagato regolarmente e che magari per problemi finanziari temporanei non ha pagato due o tre rate di leasing, si trovano a poter più accedere ai finanziamenti. E quindi tu dici il problema è essenzialmente un problema di liquidità. Allora, noi dobbiamo chiudere, torneremo con Silvia Ghilmetti a riparlare meglio di chi sono questi campioni italiani, lo prometto ufficialmente, perché adesso purtroppo entro 2 secondi devo passare la linea e augurarvi una buona giornata e darvi appuntamento a domani.